Scuola in controluce. Tutti gli anni lo stesso copione d'autunno, gli studenti occupano le scuole in difesa, nella difesa sacrosanta della scuola pubblica, i presidi si arrabbiano, i genitori invece si arrabbiavano, sì, perché l'andazzo c'è già da un po' di anni, ora però alcuni presidi sono davvero sbottati, fra questi c'è anche in qualche modo Giovanni Gaglio, preside del liceo Agnesi di Milano, che ha prima chiesto ai genitori di venirsi a riprendere i ragazzi che occupavano, poi ha detto che comunque le famiglie avrebbero pagato gli eventuali danni. Allora la domanda che vi faccio a voi che siete in ascolto da casa è se sia giusto che a pagare siano le famiglie e se i genitori siano un po' troppo teneri, un po' troppo morbidi con questi ragazzi. Mandate i vostri sms al 349-238-6666 oppure pagina Facebook Scuola in Controluce. E noi ora torniamo invece all'Agnesi. L'istituto è stato occupato giovedì scorso. Oggi i ragazzi sono invece tornati a scuola. Allora, Giovanni Gaglio, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ci sono stati danni, come l'ha trovata questa mattina la scuola? La scuola era pulita e ordinata, danni non ce ne sono stati, perché i ragazzi sono stati bravissimi nell'impegnarsi ad evitare danni. Bene, questa... Dall'altro lato anche a mettere a posto, a pulire le aule, lasciandolo in stato perfetto. Quindi anche per le famiglie non ci saranno danni da pagare, come invece no. Aveva lei chiesto quando è iniziata l'occupazione? No, io non avevo chiesto di pagare i danni, avevo invitato i genitori ad assumere qualsiasi intervento affinché cessasse un'attività che è illegale di interruzione del servizio scolastico, e avevo detto ai genitori che in base, questo non l'avevo scritto, ma in base ad alcune sentenze i danni provocati da minori sono pagati dalle famiglie, i danni provocati da maggiore, da studente maggiorenne sono pagati se le pagano da sola. Senta, ma è vero che insomma questi genitori o perlomeno quelli della sua scuola le sembrano un po' troppo morbidi nei confronti comunque di un'azione che è, lo ricordiamo, illegale, comunque la si voglia pensare, è comunque un'azione illegale? È vero che alcuni genitori sono venuti durante l'occupazione a portare zainetti, borse, vettovaglie a questi ragazzi? Ma vettovaglie non lo so, perché io alle 9:30 ho lasciato la scuola dopo aver tentato in tutti i modi di convincere i ragazzi a fare un'assemblea e dare una via, uno sbocco di legalità, una loro protesta che come tutti i giovani che si trovano in una crisi, di fronte a una crisi grave, mi sembra possa essere legittima, ma in una scuola deve avere delle regole di legalità. I genitori, tutti i genitori sono uguali in tutta Italia, non solo all'Agnesi. Assolutamente. Non è che siano permissivi o non permissivi, i genitori sono più permissivo o meno permissivo dell'Agnese rispetto agli altri, certo dei genitori sono più preoccupati che magari gli portano la coperta e queste cose qua. Lo so, però lei giustamente ha detto a questo punto, visto che i genitori sono d'accordo, noi non possiamo intervenire, legalizziamo le occupazioni, buonanotte. Questo sì, ma più che altro è una provocazione, non è che queste occupazioni che sono fatte al di fuori di una via per così dire legale, per così dire democratica, cioè dire come si è sempre fatto, un'assemblea dei ragazzi, degli studenti, una mozione nella quale si esprimono delle motivazioni alla base di questa azione estrema di protesta, al di fuori di queste regole siamo nell'illegalità, al di dentro invece di in queste regole, cioè quando c'è un confronto con gli altri studenti, una votazione fatta in un'assemblea, certo. Da 45 anni a questa parte si è sempre tollerato tutto. Sara Ferrari, studentessa dell'Agnesi, è una delle ragazze che invece ha deciso per l'occupazione, te l'hanno spiegato i tuoi genitori che è una cosa illegale? Allora, i miei genitori sono partiti dal presupposto che sì, occupare è illegale. Io ho una certa età, quindi mi hanno detto: Sara, le tue scelte sei in grado di prenderle da sola, sappi che comunque tutto quello che fai ha delle conseguenze, tutto sta in base a quello in cui credi, tutto sta in base a quello che vuoi fare. Fondamentalmente in questo momento, per com'è la situazione a livello economico italiano e in generale europeo, è il nostro futuro quello che è in ballo, quindi non quello dei nostri genitori, bene o male loro. E avete voluto dimostrare in questo modo il vostro, in qualche modo, disagio, peraltro imponendolo però agli altri, perché non tutti erano d'accordo. Lorenzo Brugato, rappresentante istituto sempre all'Agnesi, non tutti erano d'accordo su questa occupazione e tu non lo eri. Sì, Dragato comunque. Sì. Mi senti? Sì, ti sento, sei in diretta. Volevo dirti, tu non sei stato d'accordo. Perché? Sinteticissimamente. No, perché l'occupazione è stata organizzata dopo l'assemblea d'economia che si era tenuto con un docente della scuola, la quale assemblea è stata fermata alla metà del suo svolgimento e questo professore è stato fatto uscire dalla scuola mentre stava ancora spiegando, perché appunto si diceva che si doveva occupare, occupazione alla quale hanno partecipato anche molti studenti esterni o che erano ex della scuola o addirittura hanno provato ad entrare degli studenti che all'Agnesi non ne hanno mai fatto parte. Sara, è così? Sono entrate delle persone che non c'entravano niente con la scuola? Esterni ce n'erano due, erano due ex studenti dell'Agnesi che si prevedeva che la mattina dopo tenessero due collettivi, uno sulla striscia di Gaza e uno sulla situazione della Palestina e un altro sulla situazione economica attuale, quindi sì, loro sono entrati ma erano lì per una questione culturale, loro dovevano tenere dei collettivi, non sono entrati, l'occupazione è stata nostra, non loro. Loro erano lì semplicemente perché il giorno dopo avrebbero dovuto tenere due collettivi. Sì, Lorenzo. A differenza di quello che c'è scritto sui giornali, che c'erano fuori studenti dei centri sociali, non è assolutamente vero, non ce n'erano. Lorenzo, hai sentito la risposta di Sara? Sì, dico che sarebbero potuti venire il giorno dopo, penso io. Sono venuti un po' troppo presto a ficcare il naso, l'avete sentita un po' come un'ingerenza in qualche modo. Anna Rita Di Goro, presidente dell'associazione genitori AGE Toscana, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, si occupa in molte scuole, in Italia sono centinaia le occupazioni, le scuole occupate in questo periodo. Arriva un'accusa dai presidi, i genitori sono troppo accondiscendenti con questi ragazzi. Ieri c'era anche una lettera dello scrittore Antonio Pascale sul Corriere della Sera, diceva insomma in questi giorni fra genitori non si parla d'altro, il tuo occupato, il tuo non occupato sembra una cosa normale ma resta comunque una cosa, anzi sembra un esercizio di democrazia, l'ho chiesto ai nostri ascoltatori due settimane fa se è davvero un esercizio di democrazia o comunque se resta un'azione illegale. Troppo accondiscendenti i genitori? La percezione rispetto a un po' di anni fa è che i genitori effettivamente abbiano sdoganato queste occupazioni come quasi un rito di iniziazione e posso capire che portino da mangiare e da coprirsi i ragazzi, sono sempre loro figli e sono dentro una scuola. Certo è che insomma il genitore deve comunque avere una presenza educativa, cioè mi è piaciuto molto quello che ha riferito Sara a proposito dell'intervento sui genitori, cioè l'hanno responsabilizzata. Ora la Cassazione già nel 2000 si esprimeva nel senso che occupare da parte degli studenti una scuola non è un reato perché non è in realtà estranea agli studenti la scuola, per cui insomma non si applica l'articolo 633 del codice penale, però c'è da dire che comunque un genitore dovrebbe dire qualcosa, se non altro responsabilizzare i ragazzi a rispettare il bene pubblico. Io non lo farei pagare ai genitori, ma cioè i genitori dovrebbero farlo pagare ai ragazzi se fanno danni, responsabilizzarli in questo senso, perché se dicono di essere grandi e non si può dirgli no, non andare a occupare, rispettiamoli, però anche loro devono imparare a rispettare il bene pubblico. Qualche sms è arrivato in questi istanti, chi rompe paghi, dice Teresa, prima i ragazzi vengono indottrinati per giorni dai professori, poi ci lamentiamo delle occupazioni e delle manifestazioni, Marco da Macerata. Chiudiamo invece con il preside dell'Agnesi, Giovanni Gaglio, ha sentito allora la Di Goro, da oggi si torna però a scuola, si torna a lavorare in una scuola, questo ci fa piacere averlo sentito da lei, a posto, pulita e perfetta. Sì, la Di Goro diceva che la di una sentenza della Cassazione ha anche ragione, nel senso che anche ragione a riferire giusta il riferimento, nel senso che la scuola è dei ragazzi, sono d'accordo, però nel momento in cui si superano delle regole ci vuole una sanzione, se o la sanzione avviene, per cui confermiamo che una regola violata lei della legalità, o la sanzione, o se la sanzione non avviene. Ma lei li sanzionerà i suoi ragazzi? Ma quello aspetta i consigli di classe, probabilmente. Ma qualche docente diceva mettiamo una nota sul registro, Ora, vabbè, vediamo allora. Vediamo. Grazie. Una nota sul registro è un po' poco, nel senso che ne prendono già molte. Ringraziamo Giovanni Gaglio, preside del liceo Agnesi di Milano, e due studenti, Anna Rita Di Goro, presidente dell'associazione genitori AGE Toscana. Scuola in Controluce torna lunedì prossimo alle 13:30. Parleremo di scuole in Emilia.